24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, riparte la nuova settimana di 24 mattino, 24 mattino e radio24.it è la nostra mail, ci trovate anche su Facebook 24 mattino. E allora, di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo di federalismo fiscale in qualche modo, perché parliamo della decisione da parte del governo nella bozza sul federalismo di non far pagare l'ICI per gli immobili della Chiesa, la nuova tassa, anzi l'IMU per gli immobili della Chiesa sarà esentato tutti i beni del Vaticano. Vi chiediamo, secondo voi siete d'accordo? È una scelta che condividete? È come è nella storia da sempre, l'ICI non pagata per quel che riguarda la Chiesa. Ne parliamo alle 8:30 nel nostro sondaggio. E ora, che dire, iniziamo dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Lunedì 24 gennaio, l'apertura del Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì dedicata alle piccole e medie imprese, dalle PMI una spinta al PIL, questo è il titolo di apertura, mentre campeggia un po' su tutti l'accusa che ha fatto il presidente di Confindustria Marcegaglia sul fatto di un governo bloccato, governo insufficiente da 6 mesi, questo è il titolo del Corriere della Sera. Da mesi il governo è bloccato per Repubblica, sono tutti virgolettati appunto del presidente di Confindustria. La Stampa, Casini, governo PDL senza Berlusconi, è un'intervista del leader UDC. Mentre il giornale, Ballarò inventa una finta escort e i cattolici scaricano Santoro, tarocchi Rai. Anche per il Messaggero, Marcegaglia, governo insufficiente. Vedremo anche altri titoli. Io voglio partire dalle consuete segnalazioni. La prima viene da Padova. E c'è ampio risalto di questa notizia sia sul Corriere della Sera che sul giornale. La leggo dal Corriere a pagina 22. Il vescovo, quel soldato morto, non è un eroe. Sono parole di Monsignor Mattiazzo, il vescovo di Padova, e riguardano la morte dell'alpino veneto a Kabul, l'ultimo rimasto ucciso, l'ultima vittima a Kabul. Non ritengo opportuno replicare le parole di un confratello, quello che penso sui nostri soldati in Afghanistan l'ho sempre detto nelle omelie. Così dice l'arcivescovo Vincenzo Pelvi, replicando a quello che ha detto qualche giorno fa il vescovo di Padova, Monsignor Mattiazzo. Monsignor Mattiazzo, che cosa ha detto della morte di Matteo Miotto in Afghanistan, l'alpino morto? Certo, sono dispiaciuto per la morte di questo ragazzo, ma non sono d'accordo con una certa esaltazione retorica. Non facciamone degli eroi. I nostri soldati vanno lì con le armi. Ovviamente è successo un putiferio, sono scoppiate le polemiche, c'è anche il ministro La Russa, intervistato dal Corriere della Sera, raggiunto, dice: certo che so di queste parole dell'arcivescovo di Padova Mattiazzo, è un'opinione personale, però vanno lì coi fucili. Eh sì, dice La Russa molto pungente, ha ragione lui, non bisogna dimenticare che anche i carabinieri e polizia hanno le armi per combattere il terrorismo, così se un carabiniere viene ucciso da un criminale diremo, come dice il vescovo di Padova, che non bisogna dimenticare che il carabiniere girava armato. Consiglierei al vescovo Mattiazzo di contare fino a 10 la prossima volta che vorrà fare simili esternazioni. Insomma, il vescovo che dice quel soldato morto non è un eroe, anche per il giornale c'è un'intera pagina, pagina 12, il vescovo che non ha pietà dei nostri ragazzi caduti. Monsignor Mattiazzo confessa perché ha snobbato i funerali dell'alpino ucciso. Non sono eroi di pace, questa è una guerra. È la vecchia polemica riproposta oggi da queste parole dell'arcivescovo di Padova. Mentre l'altra segnalazione è una vicenda incredibile che troviamo sia su Repubblica ma anche in prima pagina del Secolo XIX. Venezia dona un rene al fratello, la licenziano per troppe assenze. È la storia di una cinquantenne precaria in convalescenza per diversi giorni perché ha deciso di donare un rene al fratello, l'unico modo per salvare suo fratello. Risultato, ha fatto troppe assenze e l'azienda, o meglio era un lavoro interinale, è stata licenziata. Francesca Scarpa, tra l'altro in prima pagina del Secolo XIX c'è la storia, vale a dire quelle 20 righe che il Secolo mette in prima pagina in basso, oggi dedicata proprio a questa vicenda. Giuliano Galletta racconta, sotto il titolo «Donna Urrene, licenziata per assenze», a voler dar retta alla Costituzione, atteggiamento considerato negli ultimi tempi non sufficientemente moderno, la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, articolo 1, e garantisce il diritto alla salute, articolo 32. Nella fattispecie di tali diritti non sembra rientrare la signora Francesca Scarpa, da Venezia, 50 anni, badante precaria. La colpa di Francesca è stata quella di donare un rene al fratello per salvargli la vita, essere costretta dai medici a un periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico. Ma secondo l'agenzia di lavoro interinale per cui lavorava, Obiettivo Lavoro, questa è stata una giusta causa per non rinnovarle il contratto a termine. Non mi hanno neppure scritto, ha raccontato Francesca, solo una telefonata. Non ci servi più. Ho il dubbio che dal punto di vista legale la decisione dell'agenzia sia del tutto regolare, ma proprio questo la rende, se possibile, ancora più odiosa. Siamo di fronte a una legislazione, soprattutto a una mentalità, che rende tutto questo possibile e temo molto più spesso di quanto pensiamo. Così Giuliano Galletta sul secolo XIX, questa storia che certo si è confermata in questi fatti, in questi elementi, ha davvero dell'incredibile. Ci fermiamo qui per il momento, pubblicità e meteo, poi ripartiamo certo dalla politica, certo ovviamente ancora dal caso Ruby. In primo piano. Il lunedì si sa, le notizie sono un po' poche e la giornata politica, la settimana politica inizia un po' stancamente. Certo c'è la vicenda Ruby, sempre sui giornali, che tiene banco anche se un pochino più lentamente, con pagine meno dense rispetto agli altri giorni. Certamente quello che prende le prime pagine dei giornali è ciò che ieri il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, era ospite da Fabio Fazio, che tempo che fa, ha detto, vale a dire... un governo bloccato di fatto da 6 mesi. Nei primi tempi della crisi il governo ha tenuto i conti pubblici a posto, è stato importante, ma ora serve di più, ha detto Marcegaglia. Da 6 mesi a questa parte l'azione del governo non è sufficiente, serve stabilità, ma non fine a se stessa, serve stabilità per fare le riforme. C'è anche tra l'altro una apertura a un Tremonti premier, un nuovo primo ministro deve avere la maggioranza in Parlamento, deve essere indicato dagli elettori, in tal caso Tremonti perché no, ha detto Marcegaglia. Dunque un'apertura a Tremonti, ma se ci sono, se viene eletto, se ha i voti degli elettori. Certo, questo, ripeto, prende le prime pagine dei giornali. Da mesi il governo è bloccato, titola Repubblica. C'è per esempio sul Corriere della Sera un intervento del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Gelmini, ecco l'agenda rispettata del governo, una lettera al direttore del Corriere, Ferruccio De Bortoli. Caro direttore, inizia così la Gelmini, prende spunto per la verità dall'articolo di Sergio Romano apparso ieri sul Corriere, che scriveva: il premier dovrebbe governare invece di occuparsi d'altro, e la Gelmini elenca tutto quello che il governo ha fatto. Abbiamo garantito copertura agli ammortizzatori sociali, siamo a un passo dall'attuazione del federalismo fiscale, la battaglia sulla legalità, in attesa della riforma sulla giustizia c'è la riforma del processo civile, la riforma della pubblica amministrazione, misure di sostegno per le famiglie, la prossima mossa è quella del governo, è quella del fiscale col federalismo, l'introduzione di 2 sole aliquote, beh questa però la si sente un po' da parecchi anni. Sta di fatto la Gelmini, insomma, difende tutto quello che è stato l'operato del governo. Certo, forse l'intervista politica più interessante è quella che Pier Ferdinando Casini concede alla Stampa, pagina 3. Marcello Sorgi lo intervista. Governo assieme al PDL ma senza Berlusconi, l'appello di Casini, che prima parla del caso Ruby e dice: è incredibile, il governo al gran completo pensa solo a dire che quel che tutti abbiamo visto e sentito non è vero e Berlusconi è vittima di una montatura. Io, se c'è uno che ha riconosciuto da tempo che Berlusconi è vittima di accanimento giudiziario, quello sono io. Ma tra le accuse di reati finanziari commessi da Mediaset, per fare un esempio, e ciò di cui si discute in questi giorni, c'è differenza. Per esempio, cosa avrebbe dovuto dire, chiede Marcello Sorgi a Pier Ferdinando Casini, Berlusconi. E beh, Casini risponde: beh, quello che non avrebbe dovuto dire, partiamo da qui, far dire alle ragazze che frequentavano le sue ville o ai ministri obbligati a difenderlo. Berlusconi non può credere di convincere l'opinione pubblica che Ruby sia una santa e che i magistrati che indagano su un caso di prostituzione minorile meritino addirittura una punizione. Ma per chi ci ha preso? chiede Casini. Quantomeno dovrebbe spiegare, non può continuare a negare il 100% di quello che è accertato dalle indagini. Poi dovrebbe scusarsi per il danno d'immagine che questa storia porta al paese, non solo a lui ma all'Italia, rispetto a governi e paesi con cui abbiamo relazioni stabili e che vorrebbero sapere se siamo diventati il paese del bunga bunga. E poi Casini invece, per quel che riguarda la politica, dice: nessuno pensa a ribaltoni, sto dicendo che se nasce un altro governo di centrodestra in grado di allargare la maggioranza, portare la legislatura a compimento, i responsabili non sarebbero solo quelli che si sono costituiti in gruppo. Insomma, mi lasci dire, dipende non solo da Berlusconi ma da tutto il PDL. Anche un governo di centrodestra senza Berlusconi, dentro quel partito ci sono personalità autorevoli che potrebbero guidare un governo senza, ma non contro Berlusconi, che potrebbe conservare il ruolo di leader del centrodestra. Dunque Casini dice: assieme al PDL ma senza Berlusconi. Insomma, il clima è questo. Fini che ha ancora chiesto le dimissioni di Berlusconi, il PDL che ha detto, che risponde: dimettiti tu. Questo è per esempio pagina 7 del Giornale, mentre secondo Francesco Bei di Repubblica c'è un Bossi, perché la settimana è quella decisiva sul federalismo fiscale, un Bossi che ha tre opzioni sul tavolo. Una è quella andare avanti così, la seconda è quella di un nuovo governo, la terza, secondo Repubblica, quella sulla quale la Lega si starebbe un po' buttando in esplorazioni politiche, è la carta del governo del presidente. Un governo del presidente sarebbe Giulio Tremonti, ancora una volta, che torna come figura che potrebbe occupare il posto di Berlusconi nel governo di presidente, questa figura, questa nuova opzione. E infatti Francesco Bea, pagina 3 di Repubblica: Bossi è l'esecutivo del presidente, per il federalismo serve una base larga. Tutti oggi anche sono molto concentrati su quello che dirà il cardinal Bagnasco, il capo della CEI, al Consiglio Permanente dei Vescovi, interverrà oggi pomeriggio. Si attende anche qualche precisazione, qualche intervento sul caso Ruby. C'è da dire che per la verità ci sono anche tentativi un po' di attese, che per esempio il Giornale bolla come attese ipocrite da parte di chi, chi magari attacca sempre la Chiesa e poi spera nel momento più opportuno che la Chiesa dica parole che possano essere utilizzate, diciamo così, o interpretate in suo favore. Tant'è vero che il Giornale mette in prima pagina: i cattolici scaricano Santoro. Cosa è avvenuto ieri? È avvenuto ieri su Avvenire un editoriale affidato a Maurizio Patriciello, che è un prete di Napoli, un prete di frontiera, e che si è detto indignato per la vignetta che ad anno zero Vauro ha fatto in chiusura di trasmissione. La vignetta era quella di un Benedetto XVI che parla di Berlusconi e dice: se a lui piacciono tanto le minorenni può sempre farsi prete. Insomma, questo riferimento chiaramente agli scandali della pedofilia. Ebbene, il Giornale che cosa fa? Mette: l'Avvenire si ribella a Santoro, vergognati, e ripubblica l'intervento di Don Maurizio Patriciello, apparso ieri. Sono un prete della Chiesa Cattolica, uno dei tanti preti italiani, e non avendo la bacchetta magica per risolvere i problemi che affliggono l'Italia, faccio il mio dovere perché ci sia in giro qualche lacrima in meno e qualche sorriso in più. Inizia così il suo atto d'accusa molto duro nei confronti di questa vignetta di Santoro. Tra l'altro c'è l'editoriale di Andrea Tornielli, il vaticanista del Giornale, che scrive riguardo a questa vignetta: tutti in studio ridono, cosa ci sia da ridere non riesco a capirlo, ma loro sono fatti così e ridono di un dramma atroce, di innocenti violentati, ridono di me, dei miei confratelli sparsi per il mondo impegnati a portare la croce con chi è da solo non ce la fa, ridono sapendo che tanta gente davanti alla televisione in quel momento si sente offesa in ciò che ha di più caro e soffre. E l'editorialista Andrea Tornielli, il titolo dell'editoriale è: ride bene chi ride ultimo. Certo, però c'è attesa per oggi le parole del cardinal Bagnasco, oggi pomeriggio. Mentre per quel che riguarda l'inchiesta, vabbè, c'è Emilio Fede che è andato in TV dicendo assolutamente non è successo nulla, insomma il leitmotiv è questo: feste molto garbate, feste molto tranquille dove si parla, si canta, si dicono delle barzellette, c'è qualche momento di sana socializzazione. C'è da dire che l'Unità punta proprio su questo, è partita la strategia mediatica, l'operazione Melassa, viene così definita in prima pagina, è scattata la campagna rimozione, va in onda dalla mattina dai programmi che Federica Fantozzi scrive a pagina 4 vengono seguiti dal target delle persone che votano Berlusconi, famiglia popolare, cattolica, età over 55, pensionati, casalinghe, gente che si abbevera al verbo di Berlusconi. E così da oggi partirà questa campagna per cancellare nei programmi quelli del mattino, quelli delle TV, soprattutto ovviamente di TV Mediaset, di cancellare la vicenda Ruby. In un processo di quella che definisce l'Unità l'infantilizzazione del destinatario del messaggio, un cardine della propaganda berlusconiana. E sta di fatto che invece per quel che riguarda l'inchiesta, il Corriere della Sera punta per esempio a questi bonifici arrivati, l'ultimo arrivato credo venerdì scorso, o comunque i giorni scorsi, rivelava Il Fatto Quotidiano di recente, a una di queste partecipanti alle feste, Alessandra Sorcinelli, quei 115.000 euro... Parla al Corriere della Sera, l'ex meteorina, un aiutino perché ero disoccupata. C'è poco da capire, non devo dare giustificazioni, sono aiuti che mi sono arrivati in momenti di difficoltà. Aiuti, 115.000 euro in poco più di un anno a questa ragazza 26enne di Cagliari. Parla di coincidenza per l'ultimo bonifico arrivato proprio nel giorno in cui lei è stata perquisita. Smentisce che questi denari siano arrivati proprio per comprare il suo silenzio, in cambio del mio silenzio. Ma non scherziamo, con un lavoro precario come il mio può succedere. La vita costa cara e lui mi ha aiutato. Accidenti, lavoro precario, 115.000 euro in poco più di un anno. Uno stipendio che insomma non è che tutti si possono permettere, eh? Io no. Basta con questi festini, per piacere, le chiamerei cene tranquille, eleganti, dove si mangiava, si ascoltava, eccolo qui, la musica, gli aneddoti del presidente, si parlava di tutto, dalla politica al gossip. Ruby mai vista. Così parla la Sorcinelli, Alessandra Sorcinelli, 115.000 euro ricevuti, secondo l'accusa, in un anno da Silvio Berlusconi. Tra l'altro questa è una settimana decisiva anche per la mozione di sfiducia a Sandro Bondi, credo mercoledì e giovedì ci sarà il voto, mentre ci sono ancora sui giornali pagine sulla vicenda di Totò Cuffaro. Totò Cuffaro che è stato condannato in Cassazione definitivamente dunque a 7 anni per l'accusa grave di favoreggiamento aggravato alla mafia. Credo aggravato, è stato sì, confermata anche l'aggravamento e quindi è andato in carcere Cuffaro e la notte in cella leggerò Guerra e Pace. Ora sapete che come al solito ci sono le prerogative dei parlamentari di poter andare a trovare i carcerati e dunque sia il Corriere della Sera intervista il senatore Compagna che è andato a trovare Cuffaro, l'ho visto abbastanza sereno, leggerò Guerra e Pace, ha detto, si è informato quanto ha fatto il Palermo, col senatore Compagna che si è morso le mani, dice oddio non lo so, cioè l'unica cosa che poteva sollevare anche Cuffaro, non sapeva il senatore Compagna, non si era informato prima di andare a trovarlo quanto fosse il risultato della partita del Palermo, che ha vinto peraltro. E mentre la Stampa intervista chi? Follini, anche lui il senatore del PD oggi, ma colui che con Cuffaro nell'UDC ha passato tante battaglie politiche, anche lui è andato a trovarlo nella cella di Cuffaro, affronto con dignità questo calvario. Follini va a trovare l'ex compagno di partito, il suo è un destino ingrato, è un uomo robusto con dei difetti di cui oggi non parlo, ma anche tanti pregi, tra questi la forza, la tenacia nelle convinzioni sia religiose che civili, insomma un Totò Cuffaro che ora affronta da dire anche quelli che sono stati i suoi rivali politici, quelli che hanno detto deve pagare se è colpevole, ora hanno ammirano se non altro il modo di affrontare con grande dignità il fatto che ci sia stata una condanna passata in via definitiva e lui senza perdere un secondo si è consegnato alla giustizia. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico e poi ripartiamo da cosa? Il tema del nostro sondaggio, il federalismo fiscale, che oggi è anche pagina 3 del Sole 24 Ore. In primo piano scatta il censimento sui costi dei comuni. Come detto, è una settimana decisiva per il federalismo, che già doveva essere approvato venerdì scorso, poi c'è stata una proroga di qualche giorno. La Lega è molto in fermento a dire entro questa settimana si deve chiudere. Il titolo che ho letto è pagina 3 del Sole 24 Ore: scatta il censimento sui costi dei comuni, perché Gianni Trovati racconta che cosa? Che parte proprio oggi con la lettera che Sergio Chiamparino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI, quindi di tutti i comuni italiani, manda a tutti i comuni in Italia per capire che cosa. Bisogna fare un mega censimento sui costi standard per stabilire poi il livello giusto dei finanziamenti federalisti. Di quali costi? Beh, quanti sono i semafori del comune? Quante sono le auto, le moto, le biciclette, i telefoni cellulari di servizio utilizzati dalla polizia municipale? Quanto si spende per la cancelleria dell'ufficio anagrafe? Ecco qui, a queste domande parte questo mega censimento, tutti i comuni, in un'operazione che il Sole definisce gigantesca, perché dovrà passare al setaccio le modalità in cui gli enti locali svolgono proprio il proprio core business, dall'anagrafe, gli asili nido, l'istruzione pubblica, la gestione del territorio, dell'ambiente. Quando si scopriranno tutti i costi dei comuni che dovranno rispondere, ecco che si stabiliranno i fabbisogni standard, i livelli standard, e da qui insomma si potrà partire per capire qualcosa di più di quant'è il costo giusto in tutta Italia per ogni servizio. E dunque questo è un passo importante per il federalismo. È legato al federalismo anche il tema del nostro sondaggio, che vi invito a votare su radio24.it, e cioè la polemica per il fatto che nella prima versione la nuova ICI, che si chiamerà IMU, doveva essere pagata anche per esempio dagli immobili che la Chiesa utilizza a scopo commerciale. È stato invece nella seconda versione, quella definitiva del federalismo, cancellato questa cosa, per cui ci sarà l'esenzione dall'IMU o ICI, cominciamo a abituarci a chiamarla IMU, l'esenzione dall'IMU per tutti i beni di proprietà del Vaticano, anche quelli utilizzati a scopo commerciale. E noi vi chiediamo, siete d'accordo, secondo voi è giusto che il Vaticano non paghi nulla? Regalo ICI alla Chiesa pagato dagli artigiani, così titola l'Unità. Bianca Di Giovanni dice che quello che non pagherà la Chiesa verrà compensato con la maggiorazione del 30%, se non di più, nei confronti degli artigiani e piccoli commercianti con il federalismo per quel che riguarda l'IMU. E insomma, e si chiede l'Unità, chissà se la Lega riuscirà a spiegare questa cosa agli artigiani e ai piccoli commercianti. Sta di fatto che questo è il tema del nostro sondaggio, ne parleremo alle 8.30, mentre voglio sottolineare di altre notizie che cosa? Beh, il Sole 24 Ore comincia a concentrarsi su quello che è il click day a partire da lunedì prossimo. Sapete che c'è un nuovo decreto flussi con 100.000 stranieri, lavoratori extracomunitari che sono richiesti in Italia. Queste sono le cifre. Il nuovo click day sarà settimana prossima. Franca De Ponti e Francesca Padula ne scrivono a pagina 7. Si stima che ci saranno circa 400.000 domande e si stima che tutto avverrà in un secondo. Lunedì prossimo alle 8 i datori di lavoro potranno fare il loro click day. Nella corsa del click day in coda 400.000 immigrati, sono 100.000 i posti in palio. Saranno tre i giorni, lunedì 31 gennaio, il 2 e il 3 febbraio, e trovate tutto sul Sole 24 Ore in prima pagina e poi a pagina 7 di come fare, anche tutte le istruzioni ci sono anche per la gara online, è tutto pronto, è tutto spiegato sul Sole 24 Ore. Per quel che riguarda le altre notizie, voglio andare a qualche segnalazione, intanto di colore, a pagina 17 della Stampa: che ti ha combinato il governo inglese? Lo sceriffo Cameron decreta: vendete il bosco di Robin Hood. Vogliono vendere i boschi, così scrive Andrea Malaguti sulla Stampa da Londra, pagina 17, forse è un po' esagerato, però sta di fatto che alcuni boschi, alcune foreste verranno, tra cui anche la foresta di Sherwood, nella quale passano 500.000 turisti ogni anno, Nonostante, dopo aver detto saremo il governo più verde della Gran Bretagna, il ministro dell'ambiente Caroline Spellman ha rimesso il 30% di quasi 3 miliardi solitamente disponibili per il suo dicastero e allora ha trovato il modo per fare un po' di cassa. Privatizzare. E qui subito gli ambientalisti sono scatenati, ecco, appena sentito la parola privatizzazione, vogliono vendere il bosco di Robin Hood. C'è una rivolta degli ambientalisti in Gran Bretagna. Voglio chiudere, visto che mi dite spesso ma come, non leggi più la gazzetta, i titoli, lo sport, sarà mica perché il Milan un po' sta arrancando? Eccoci qua con la gazzetta, il Milan ha vinto e dunque la firma di Ibra. Questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport, anche se secondo me, cari ascoltatori, lo sport italiano, gli appassionati di sport si devono inchinare tutti alla nuova impresa di Francesca Schiavone, che poco fa vedevo passare in TV. Ci sono gli Australian Open a Melbourne, in Australia, la prima gara del Grande Slam di tennis, e Francesca Schiavone è arrivata ai quarti di finale, ha battuto negli ottavi colei che aveva già battuto vincendo Roland Garros a Parigi, con una partita che è già negli annali del tennis, come ne scrive in maniera come al solito esemplare Gianni Clerici su Repubblica, la partita della vita, 4 ore e 44 minuti, vinta 6-4, 1-6, 16-14 al terzo set, la partita della vita di Gianni Clerici, ve lo segnalo, 5 ore in campo, l'Australia in corona, Francesca la tenace, ora è nei quarti di finale, incontrerà la numero 1 al mondo, insomma siamo tutti con Francesca, un'impresa certo molto molto difficile. Anche sulla Stampa in prima pagina c'era l'opportuno elogio di Francesca Schiavone, Schiavone nella storia dopo la partita record, e poi all'interno a pagina 51 dello Sport c'è un'intera pagina dedicata a questa grandissima campionessa che ora diventerà numero 4 al mondo. Schiavone riscrive la storia, ho scavato nel mio barile, dopo aver annullato vari match point ha vinto ed è nei quarti di finale. Ci fermiamo, ora il GR e ci sentiamo subito dopo. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Voglio salutare il direttore del TG della 7, Enrico Mentana. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. Allora, intanto la domanda è secca: Berlusconi, secondo lei, ce la farà a superare questa vicenda? Insomma. Faccio il giornalista, non faccio la maga. non lo so, tante volte in passato, anche nel passato recente, ho visto molti altri colleghi, esperti, politologi esporsi su questa domanda, poi Berlusconi ci ha sempre fatto. Da questo punto di vista, diciamo, la ridondanza di mezzi, ma anche il carattere, ne fanno un combattente strenuo, quindi ce la farà o non ce la farà, bisogna aspettare. Allo stato degli atti siamo in una di quelle fasi, dopo una grandissima ondata in cui la situazione sembra normalizzarsi, se si può parlare di normalizzazione nei casi italiani. Quindi oggi sembra più di ieri che ce la possa fare, no? Ma basterebbe che arrivassero altre 2 o 3 paginate di intercettazioni e cose di questo genere, tutto tornerebbe al solito tormentone. Il problema è lo sbocco politico di una vicenda che è extra politica. Infatti, ma anche questo è un paese normale, quello in cui appunto 3 paginate di intercettazioni sui giornali possono cambiare anche la situazione politica? È successo negli Stati Uniti con Clinton, cioè, non è un paese normale, ma non è normale ciò che è eccezionale. Ciò che è eccezionale appunto è poter scoprire i vizi privati di chi ci governa, questo, l'effetto, il contraccolpo, la polemica, lo scandalo sarebbero uguali in tutti i paesi del mondo. E non c'è paese che, adesso io non voglio relativizzare le cose, è ovvio che se ci troviamo di fronte a una situazione clamorosa, tant'è che ci riempiamo le pagine dei giornali e dei telegiornali, però sta per uscire, oggi c'è la recensione sul Corriere della Sera del quel film che ha già vinto moltissimo ai Golden Globe, che è La parola del re, in cui si ricorda la storia di quel re d'Inghilterra che non 1000 anni fa, ma nel secolo scorso, andò al trono perché il fratello decise di mettersi con Wallis Simpson invece di fare il re, che era divorziata, americana e tante altre cose, e soprattutto evidentemente si esercitavano molto nel sesso. È nella storia che succedano queste cose, perché sono le debolezze degli uomini che si accoppiano alle loro forze, no? e siamo noi italiani che hanno inventato, coloro che hanno inventato quel detto comandare meglio che eccetera eccetera eccetera, eccetera. Eppure, poi evidentemente non si negano nulla. Oggi la prima pagina dell'Unità, non so se l'ha già vista, titola Operazione Melassa, cioè secondo l'Unità sarebbe pronto un'operazione Melassa, cioè non cancellare soprattutto in quelle trasmissioni Mediaset del mattino destinate alle casalinghe, ai pensionati, tutta questa vicenda. Esiste questa strategia mediatica da uno che ha vissuto tanti anni a Mediaset? Ma non lo so se esista questa strategia, lo scopriremo vivendo. Viene da chiedersi se per caso nelle trasmissioni del mattino quelle che è, deve davvero esserci questo. Non lo so, non è un obbligo, no, parlare in ogni tipo di trasmissione di queste vicende, basta ne avanzano le tante trasmissioni di informazione che abbiamo nel nostro paese. Siamo un paese che ha 7 telegiornali, 5 trasmissioni di prime time e 3 o 4 di seconda serata di approfondimento giornalistico, scontro delle idee e quant'altro. Non mancano, come dire, le cornici per parlare di tutte queste cose, non è un obbligo parlare. No, anche perché qualcuno dice c'ho la nausea, vorrei sentir parlare d'altro, ma è davvero così da chi fa il direttore? Cioè, gli ascoltatori vogliono sentire soprattutto questo? Gli ascoltatori, ognuno ha i suoi ascoltatori, ma mai scambiare i propri ascoltatori per la totalità. È evidente che c'è un sacco di gente che non è che ama passare proprio la giornata al mattino alla sera a sentire giovani, le intercettazioni o il racconto di intercettazioni di escort o ragazze in fiore, per carità, che spiegano come vogliono svoltare la giornata a spese di un anziano facoltoso premier. È ovvio che posso aggiungere un'altra cosa per essere ancora più scarnificante. Probabilmente ormai tutti sappiamo tutto relativamente a quelle 389 pagine, perché le abbiamo squadernate tutti i giorni da quando all'inizio della settimana scorsa sono state mandate al Parlamento. E quindi in realtà c'è poco da raccontare, se non cosa ha detto la Macri, di quello che ha detto il marito della Macri, di quello che ha detto la Macri, cioè siamo ovviamente al dopo partita esteso fino al martedì, come succede nel campionato di calcio, in cui si tenta di lucrare su quello che è successo attraverso chiacchiere, polemiche, cose di questo genere. La realtà è davanti agli occhi di tutti, la realtà. Poi la realtà è fatta di appunto pagine di intercettazioni verbali, acquisizioni giudiziarie. Poi ovviamente a ognuno platonicamente di giudicare, quello che però è un'inchiesta giudiziaria, quindi deve andare ai suoi sbocchi naturali. Ma la realtà cosa vuol dire per Mentana? La realtà è davanti agli occhi di tutti? La realtà di quello di cui si parla, la realtà giudiziaria, nel senso cosa c'è nelle pagine dei documenti della procura, quello poi che sia vero. Che sia quello che è o che sia un reato, non lo possiamo stabilire noi, lo stabilisce la giustizia, perché crede nella giustizia. Il premier dirà per sempre che comunque non è successo niente, quale che sia il giudizio in ultimo grado, se posso che ci si arrivi. Sì. Un'ultima cosa, nel salutarla, avrebbe mai dato un numero di telefono, come ha fatto Libero, che ha pubblicato in prima pagina, il cellulare di Santoro, per contrappasso, dicendo, visto che Santoro ha svelato l'anno zero, ecco il cellulare di Santoro, e sabato campeggiava in prima pagina 3, 4, 8 e via dicendo. No, francamente io non avrei fatto tante cose di quelle che sono state fatte, ma anche qui siamo al bipolarismo giornalistico, però è difficile pensare a come sarebbe stata tutta questa stagione, l'ultimo anno della vita pubblica, se non ci fossero stati il Libero, il Giornale e il Fatto Quotidiano. In realtà è meno la danza anche giornalisticamente. Ah, sì, sì. È ovvio che poi ci sono i side effect, gli effetti collaterali. Cioè, è ovvio, questo è uno. Bisogna prendere il pacchetto completo. Se non ti piace il dessert, però devi mangiare tutto. Vabbè, è la situazione. Non sveleremo il cellulare di Mentana in onda, comunque. No. Anche quelli sono danni. Voglio dire, fa più impressione vedere che è disponibile in giro quello del premier. Questo è vero. Che io per inciso non avevo. Neanch'io. Quello di Santoro. Quello anch'io. Grazie, Enrico Mentana. Mentana, buona giornata. Grazie, ovviamente. Buona giornata, Enrico Mentana, direttore del TG della 7. Cellulare di Santoro, sì, ce l'ho, anche se vai a invitarlo, Santoro. L'avrò invitato almeno 30 volte. Quante volte l'abbiamo invitato, Antonella Migliaccio? 30 volte, no, ma Santoro non vuole intervenire. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo del nostro sondaggio. Nel nuovo federalismo fiscale, l'esenzione per l'ICI nuova, l'IMU si chiamerà, per tutti i beni della Chiesa, anche quelli a scopo commerciale. Secondo qualcuno è giusto, perché la Chiesa utilizza questi beni per fare opere di bene, per l'appunto. Secondo altri, no. Cosa ne pensate? Votate su radio24.it oppure 800 24 0024. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:35 minuti. Nel nostro sondaggio parliamo in qualche modo di federalismo fiscale. La decisione questa, con il federalismo che verrà, tutti gli immobili di proprietà della Santa Sede resteranno esenti dal pagamento dell'IMU, la tassa che sostituirà l'ICI. Anche quegli immobili adibiti a attività commerciali, di ricezione. Che ne pensate? È giusto questo? Vi chiediamo oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Votate su radio24.it. Per ora sembra un plebiscito, l'82% di voi dice di no. Però c'è chi dice, la Chiesa, la Santa Sede, il Vaticano, le parrocchie, gli oratori non devono pagare l'ICI, perché lì si fanno anche opere di bene, si aiutano chi ha bisogno. Io venerdì, perché volevo fare un mio piccolo sondaggio, molto modesto, ho chiesto al mio parroco, Don Davide, e lui mi ha detto: se io pagassi l'ICI sulla chiesa che ho, se pagassi l'ICI sulla parrocchia che ho, se pagassi l'ICI su tanti edifici che abbiamo, non potrei più fare tante di quelle cose che faccio invece ora. Ma il tema è aperto. Saluto Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani. Buongiorno e ben ritrovato, Staderini. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Così come Andrea Olivero, presidente delle ACLI. Buongiorno Olivero, presidente. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Staderini, è uno dei suoi cavalli di battaglia. Lei ha anche tutti i calcoli di quanto, secondo, cosa posso usare il termine, di quanto la Santa Sede così froda al fisco italiano, è il termine giusto? Ma parliamo di cifre che vanno intorno ai 500-600 milioni di euro l'anno solo per quanto riguarda l'ICI. Però dobbiamo distinguere, attenzione, nessuno chiede che le parrocchie, le chiese, gli oratori, gli edifici di culto pagano l'ICI. Il problema è per quelle che sono attività commerciali. Quando la Chiesa cattolica o altri gestiscono un albergo, gestiscono una clinica privata, gestiscono una scuola, in questi casi il fatto che non paghino l'ICI, e anche ricordiamolo, non pagano neanche il 50% dell'IRES, cioè l'imposta sui redditi delle persone giuridiche, è sicuramente da una parte una concorrenza sleale nei confronti dei privati, dei cittadini privati, di chi fa albergatore, di chi fa scuola in maniera privata, e per questo l'Unione Europea sta per sanzionare l'Italia, e dall'altra è anche una ingiustificata evasione, esenzione dalle tasse che va a danno dell'interesse della generalità dei cittadini. Questa è la questione di cui oggi con il nuovo federalismo si sta tornando, e ricordiamolo bene, non era previsto nel decreto che era uscito. Sì, in una prima bozza. In una prima bozza era previsto che venisse introdotta l'IMU anche per quel che riguarda i beni della Chiesa. Insomma, è una chiara merce di scambio in vista del federalismo tra Lega e Vaticano, è chiaro. Io le chiedo, è anche, come qualcuno ha detto, una lettura, secondo me qui esagerando, una lettura, il gesto che il governo deve fare per accattivarsi, insomma, le simpatie del Vaticano, visto che in questo momento, come dire, sono abbastanza importanti. Ma guarda, rispetto al federalismo, Bagnasco, il presidente della CEI, disse il federalismo deve essere complementare, probabilmente intendeva anche questo aspetto, che aveva sicuramente preoccupato tantissimi. Si tratta, come ho detto, di cifre molto importanti, 600 milioni di euro, e non dimentichiamo che l'Unione Europea, avendo aperto quella procedura di infrazione rispetto all'Italia proprio per aiuti di Stato, riconoscendo la fondatezza dei rischi di limitazione della concorrenza, comporterebbe che il rimborso degli ultimi 5 anni di tasse pagati. Sì, sì, ma io mi riferivo proprio allo scambio per avere un po' di clemenza sul Bunga Bunga, tanto per parlarci. Cioè, questo era... Ah, ma non c'è dubbio, la moralità molto spesso ha un prezzo, e il prezzo in questi casi è il poter mantenere quei privilegi che hanno fatto sì che ancora oggi, diciamo così, la Conferenza Episcopale, le gerarchie vaticane, attraverso questo potere economico e anche di lavoro che danno, possono avere sull'intera società italiana. A mio avviso non c'è dubbio, anche se leggiamo gli editoriali di oggi su Repubblica, sulla Stampa, ci rendiamo di conto come ci sia, anche forse in chiave magari non nettamente per Berlusconi, ma per Tremonti, colui che ha inventato l'8 per 1000, peraltro, non ci dimentichiamo. Sì, certo. Quindi sicuramente credo che c'è questa lettura e vada approfondita. Allora, Andrea Olivero, presidente delle ACLI, ha difeso anche, credo, in un intervento pubblico di recente l'importanza invece dell'esenzione dell'ICI, l'IMU, come la vogliamo chiamare. Perché, Olivero? Ma perché, oltre al fatto che naturalmente riguarda un gran numero di, appunto, come giustamente anche lei ricordava, che hanno una valenza pubblica, nel senso che vengono utilizzati all'interesse collettivo, sia pure beni di una chiesa, c'è anche un concreto rischio che insieme a questo venga tolto anche tutto quello che è il sostegno alle organizzazioni sociali. E infatti ad oggi, oltre alla Chiesa Cattolica, i beni utilizzati dalla Chiesa Cattolica al Vaticano, vi erano anche le ONLUS esenti da questo, cioè le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che disponevano e dispongono di beni che parzialmente utilizzano per attività economiche, parzialmente per attività esclusivamente sociali, ma che comunque sono nella loro disponibilità nell'interesse assoluto pubblico, e che spesso sono anche beni di grande valore, perché frutto di donazioni, che vengono mantenuti, se appunto direttamente gestiti da questi, come valenza pubblica. Qualora queste esenzioni non vi fossero, rischiano di essere venduti, perché molte organizzazioni non sono in grado di tenerli, e quindi depauperando complessivamente lo spazio pubblico. Noi dobbiamo spesso stare attenti, perché qui si fa spesso confusione tra il Vaticano, tra la Chiesa Cattolica Italiana, che è ben altra cosa, e poi appunto tutte le organizzazioni sociali. Dobbiamo tener conto che i beni vaticani sono abbastanza ridotti, diciamo concentrati su Roma. Nel resto d'Italia un gran numero di beni, è vero, sono in proprietà degli uni e degli altri, ma questi beni, che pur parzialmente vengono utilizzati per attività economiche, generalmente anche con una redditività piuttosto bassa, diciamo sono attività economiche volte prevalentemente al mantenimento dei beni stessi, certo, a garantire quel minimo di entrate che li fanno tenere in piedi, ma sono poi beni che vengono utilizzati nell'interesse collettivo, tenuti anche in condizioni dignitose al fine di garantirne la fruizione anche per tutti. Non dimentichiamoci che tantissimi tra i beni di pregio architettonico, artistico, sono oggi di proprietà della Chiesa, e la Chiesa garantisce questo bene venga mantenuto. Ma le chiedo, Olivero, secondo lei c'è un po' di troppo laicismo in questa battaglia che fa Staderini, che fanno i radicali, che fanno, o nelle critiche che ha osservato sui giornali, per esempio l'Unità molto in questi 2 o 3 giorni su questo provvedimento? Sì, perché ancora una volta si tende a estremizzare e a non guardare esattamente qual è la funzione che svolge la Chiesa all'interno del nostro Paese. È comprensibile che in Italia ci sia più conflittualità su questi temi che in ogni altro posto del mondo, nessuno nega che abbiamo una storia particolare, però proprio su queste questioni bisognerebbe essere molto attenti, perché andando nella direzione che appunto adesso diceva il segretario radicale, potrebbe esserci un rischio di depauperamento, ribadisco, di spazio pubblico. Non credo che sia nell'interesse di nessuno, credente, non credente, impegnato nel sociale o disinteressato. Ecco. Tra l'altro su questo, Staderini, io sempre al mio piccolo e modesto sondaggio, al mio parroco Don Davide, lui mi ha detto: noi abbiamo per esempio degli edifici che affittiamo a delle associazioni, su quelle paghiamo l'ICI, quindi non è vero che non paghiamo l'ICI su quegli edifici che magari affittiamo, per esempio, mi ha detto, al Movimento Alla Vita, affittiamo una parte, non è, lì paghiamo l'ICI, oppure abbiamo un asilo, lì paghiamo l'ICI, cioè sono attività commerciali sui quali paghiamo l'ICI. Quindi Staderini, mi aiuta a capire, non è che c'è un'esenzione totale. Beh, anche qui sarebbe da discutere, appunto, se chiedo io, magari come con la mia attività privata, con la mia attività sociale, l'affitto alla parrocchia, vediamo se me la danno, e invece, se no invece se il Movimento per la Vita no. Però comunque su questo credo che sia importante ricordare, alla scuola privata, alla scuola cattolica, non è che la retta è gratis. Anch'io se fossi un prete non l'affitterei, uno l'affitta chi vuole, insomma. È una religiosità diversa, però se uno va alla scuola privata paga la retta, se uno va in un albergo gestito dalla chiesa paga anche lì, non è che ci va gratis, quindi non c'è per questo tipo di attività un utilizzo sociale, c'è un utilizzo privato, commerciale, speculativo, come ha diritto ciascuno che è proprietario dei suoi immobili. Il problema è che non può pretendere di essere paragonato per quelle attività alle attività di beneficenza, tant'è che negli altri stati europei esiste anche lì la Chiesa Cattolica ed è florente. Però non ci sono questi privilegi, infatti è verso di noi che l'Unione Europea ha aperto la procedura di infrazione. Sì, che pende ancora lì, Ha ragione, le attività sociali sono una cosa, ma stiamo parlando qua di attività commerciali, punto. È quello che chiediamo per rispetto dei cittadini, dei lavoratori e delle altre imprese, perché non capisco perché chi lavora in una scuola, in un albergo o in una attività ospedaliera privata debba pagare le tasse, gli stessi lavoratori debbono avere uno stipendio meno alto, perché chi paga le tasse gli dà lavoro, e invece chi lo fa per conto della Chiesa Cattolica non abbia niente da fare. Tra l'altro, come la mette oggi l'Unità, è l'IMU non verrà appunto introdotta per quei beni ecclesiastici utilizzati a fini di lucro, fini commerciali, e quindi verrà, e quindi, attenzione questa società, e quindi per questo deve essere maggiorata del 30% per commercianti e artigiani. Ecco, certo che messa così, io non so se sia vero, messa così uno può dire beh, è una cosa inaccettabile. Però bisogna vedere se è questo modo di porla, cioè siccome non la paga la Chiesa la deve pagare il 30% più artigiani e commercianti, chissà. Da qui voglio ripartire dal presidente Olivero dopo il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, al momento l'82% degli ascoltatori dice no, anche la Chiesa dovrebbe pagare sugli immobili ovviamente usati a fini commerciali, l'IMU o l'ICI, che dir si voglia. Voglio sentire Maddalena dalla provincia di Roma, o da Roma anzi, che ne pensa? Buongiorno Maddalena. Pronto, buongiorno. Dica. Allora, guardi, io premetto che sono una cattolica praticante, vado a messa la domenica mattina. Beh, ma che c'entra questo? Non no, no, c'entra, questo per dire che non ce l'ho con la Chiesa, insomma, no? Ma neanche però, io. Però a un certo momento non è giusto, trovo che non sia giusto, che la Chiesa sia esentata dal pagamento della tassa che sostituirà l'ICI per le attività soprattutto a fini commerciali. Forse fuori discussione l'esenzione per le altre attività istituzionali della Chiesa, sì. Ma io penso a tutti i piccoli commercianti che gravitano nell'area romana e che sono schiacciati dalla pressione fiscale, e questo va contro il principio della libera della libertà anche dei commercianti. Della concorrenza, lei dice. Della concorrenza, esattamente. No, mi sembra che stiamo ritornando in questa maniera ai tempi del Papa Re. Ecco, va bene, grazie Maddalena. Devo dire che anche molti albergatori credo protestino proprio su queste cose, perché sono sempre più le strutture di ricezione anche di proprietà della Chiesa che vengono convertite, vengono utilizzate per ricevere magari i pellegrini o i turisti. Roberto dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti chi ci ascolta. Sono contrario per il semplice motivo che, visto che ogni Stato si deve mantenere le proprie cose, non vedo perché noi dobbiamo mantenere il Vaticano, o quantomeno cercare di mantenere. C'è il concordato, no? Sa, questa cosa che si è firmata, e ci sono delle cose previste che vanno rispettate. Sempre per pulire le coscienze di chi governa in quel momento, secondo il mio punto di vista. No, no, questo è il suo punto di vista, però sono come dire documenti firmati, no? No, per l'amor di Dio, nelle quali c'è scritto delle cose che vanno rispettate fino a prova contraria, poi possono piacere o no. Però dunque, cioè, non abbondiamo ancora in queste donazioni, chiamiamole donazioni, visto che mi sembra un po' eccessivo, ecco. Va bene, grazie Roberto. Voglio sentire dal presidente dell'ACLE, allora, Olivero, e viene posta così sull'Unità. E certo, non pagherà la Chiesa per i fini commerciali, e pagheranno gli altri, 30% in più gli artigiani, i piccoli commercianti. Posta così dà fastidio, Olivero? Non c'è dubbio. Penso che chiunque in queste condizioni non potrebbe che avere una valutazione negativa, però bisogna stare molto attenti, intanto perché questa non è la grande eccezione italiana, rispetto comunque a gran parte dei beni appunto nella disponibilità delle chiese, l'esenzione c'è dappertutto, a me è capitato recentemente di valutarlo, persino nella laicissima Turchia c'è l'esenzione rispetto agli immobili di proprietà della chiesa, perché appunto si ritiene che comunque i luoghi di culto, i luoghi annessi, le attività immediatamente connesse a queste abbiano giustamente necessità di questa tutela. Bisogna però distinguere qui, io sono d'accordo rispetto al genere di attività, come le ricordava il suo parroco, la stragrande maggioranza delle parrocchie italiane pagano l'ICI per la parte di immobili che vengono utilizzati in maniera commerciale. Se questo non viene fatto, ecco, su questo si può certamente discutere e qualora si possono andare a valutare, a prendere altre valutazioni, io credo che gran parte della Chiesa sia concorde. Bisogna però anche qui andare a valutare attentamente le tipologie di impieghi che vengono dati rispetto a questo, perché ci sono oggi opere sociali assistenziali che hanno attività parzialmente commerciali, cioè svolgono piccole attività, per esempio, che vengono eseguite. Per esempio, io penso a molte attività nell'ambito socioassistenziale e sanitario, in cui non ci sono rette di tipo commerciale all'interno della chiesa, cioè in questi istituti, ma ci sono richieste di rimborsi per alcune o di attività, appunto alcune attività vengono fatte a pagamento, altre sono gestite in maniera volontaristica. Certo. Ora, in questo ambito. Quindi dici, magari qui le rette costano meno, non sono, certo, non sono concorrenziali, si offre un servizio. Certo. Ecco, da questo punto di vista non so. Esattamente. Oppure le faccio ancora un secondo esempio, visto che lei citava giustamente l'aspetto anche della ricezione alberghiera. Ci sono istituti religiosi molto grandi, enormi, a volte di Roma, gestiti da congregazioni che hanno all'interno 10-12 camere per studenti che stanno a Roma. Ora, se l'intero istituto deve diventare attività, e sapete perfettamente che segmentare, andare a dividere è molto complesso, l'intero istituto deve, se diventare commerciale, chiaro, sarebbe follia. Cioè bisogna trovare delle soluzioni praticabili che tengano conto di quella che è la realtà dei fatti. Su questo vediamo. Un albergo è un albergo, un'attività ricettiva all'interno di una congregazione sì, è un po' diversa. Staderini, su questo, cioè dire, molto spesso fanno prezzi diversi, rette che non sono concorrenziali, sono anche, si appoggiano molto alle associazioni di volontariato, non sono nei prezzi del commercio, non sono gli stessi prezzi che si trovano in un albergo, per esempio, nelle strutture recettive gestite dalla Chiesa, e quindi per questo c'è uno scopo anche sociale diverso. No, attenzione, basta andare su internet e qualcuno, chiunque può cercare e vedere come stanno le cose. Poi se il prezzo è più basso, ci credo, non si paga l'ICI, non si paga, si paga la metà delle imposte sul reddito, e peraltro ci sono anche sconti rispetto al diritto del lavoro in molti casi, per cui la cosa è diversa. Ma ribadiamolo, chiese, oratori non devono pagare l'ICI, questa è la posizione chiara. Il problema è perché prima si era fatta confusione. Il problema invece è altro. Io credo anche che sia qualcosa che vada incontro anche alla religiosità. Io non sono un mangiapreti, anzi vengo dai francescani, e essendo di cultura francescana credo che il potere e l'oro facciano male alla chiesa stessa, alla comunità dei fedeli, perché non vedo perché si debba lucrare e mettersi a fare con tanti monsignori che sono diventati degli imprenditori, piuttosto che mettersi a pascere le anime. C'è il Vangelo che dice chiaramente: date a Cesare quel che è di Cesare. Io credo che debba essere rispettata questa parola. In ogni caso, per gli italiani il problema è quello che è stato posto, anche se con un titolo molto, molto forte, dall'Unità. Sì. Cioè la coperta è sempre corta. Chi li paga quel mancato introito? Quel mancato introito li pagheranno gli altri imprenditori, gli altri commercianti, e non è un problema che vale solo per Roma, vale ormai in tante realtà italiane. Si tratta di 100.000 fabbricati che vengono utilizzati a fini commerciali. Staremo a vedere quelli piccoli, diciamo, come ha detto il presidente, con 5 camere su un complesso gigante, sì, ma sono tantissimi gli altri. Parliamo di un potenziale di 250.000 posti letto in Italia. Io qui però mi devo fermare, Staderini, la ringrazio insieme al presidente delle Acre Andrea Olivero, staremo a vedere col federalismo fiscale. Intanto voi ci trovate su Facebook, è ufficiale 24 mattino. Saluto Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè regia. Vedo che facevano anche delle foto, temo tantissimo, forse anche delle foto su Facebook, oddio. Va bene, ci fermiamo, linea Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina 7:20.